20h. Jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi proposti da Stefano. Buonasera a tutti da Stefano per un altro appuntamento con Jazz e dintorni. Anche questa sera proposte interessanti, proposte nuove, anzi no, non tanto nuove, perché il tema di questa sera è particolare, legato al passato. Il tema è come eravamo, il jazz rock negli anni 70. Quindi parleremo di quella che è un po' la genesi di una parte del jazz contemporaneo, quella parte più elettrica. Negli anni 70, anni un decennio molto vivace sotto tutti gli aspetti sociali, culturali, ma anche sotto quello musicale e anche per il jazz, come vedremo oggi. Quindi le proposte di oggi saranno tutte tratte da dischi incisi, diciamo, nei primi anni 70, quindi fra il 71 e il 74, da artisti molto diversi, che hanno anche provenienze diverse, ma che riescono a mischiare questo jazz, che forse era così un po' legato a schemi del passato, con il rock, ma non solo col rock, anche col funk, come ascolteremo anche con il primo artista, per poi dar vita a questo genere molto ampio in realtà, che veniva definito e viene tuttora definito jazz rock, che sicuramente rappresenta una innovazione nel campo musicale generale, tanto più in quello del jazz. Non vi faremo ascoltare neanche oggi un altro dei grandi del jazz rock, ma che non è solo grande del jazz rock, lo è stato nel bop, lo è stato poi in momenti successivi, in tutte le varie fasi del jazz. Vi parlo di Miles Davis, ma ascolterete alcuni che hanno suonato con lui. E il primo artista, il primo musicista che facciamo ascoltare ha inciso, non a caso, anche con Miles Davis proprio negli anni 70. Si tratta di un batterista, anche qui non è un caso questa scelta dell'uso della batteria, che riesce bene ad unire il jazz con il rock. Si tratta di Billy Cobham. Billy Cobham, nato nel 1944 a Panama, ma molto presto emigrato con i suoi genitori a New York, e cresciuto sostanzialmente anche musicalmente negli Stati Uniti. Infatti i suoi studi musicali sono stati fatti a New York. È interessante perché le prime esperienze professionali di Billy Cobham sono state fatte in una banda, nella banda dell'esercito degli Stati Uniti, dove ha suonato dal 65 al 68. Sentirete adesso negli anni 70 che cosa riesce a produrre Billy Cobham, che, come diciamo prima, non solo ha suonato con Miles Davis negli anni 70, ha suonato con i Breaker Brothers, è stato un cofondatore della famosissima Mahavishnu Orchestra con John McLaughlin, abbiamo ascoltato già in passato e che ascolteremo anche in futuro, anche se non oggi. Ecco, nel 73 Billy Cobham incide il suo primo album da solo, si chiama Spectrum. È un album molto bello, che sicuramente ha segnato la storia del jazz rock. E in questo album c'è un pezzo famosissimo che si intitola Stratus, e che è quello che ascolteremo oggi. Sentirete l'uso che viene fatto degli strumenti elettrici, ma soprattutto la batteria, questa straordinaria batteria usata da Billy Cobham, che è il primo ad usare, il primo famoso ad usare numerosi rullanti, numerosi snare drums, numerosi tom, numerosi piatti, insomma aveva una batteria di fronte a sé enorme che produceva una massa sonora interessantissima, sentirete, con degli effetti straordinari. E il pezzo che vi farò ascoltare, come vi ho detto, è Stratus, disco del 1973, è il primo disco solo di Billy Cobham. Billy Cobham, Stratus, dal meraviglioso disco Spectrum. Veramente, come potete sentire ancora in sottofondo, una batteria, un basso, una tastiera straordinari, veramente conservano anche dopo tutti questi anni una loro modernità. Sicuramente immaginate appunto in anni lontani, quindi nel 1973, questi suoni così difficili un po' da classificare, ma che vengono ritenuti appunto jazz rock, jazz funk, hanno sicuramente significato moltissimo per quegli anni. Ecco la batteria, come continuate a sentire sotto, peccato che non c'è Paolo che era il mio compagno di radio l'anno scorso per la parte jazz, perché lui avrebbe potuto descrivervi con maggiore dettaglio diciamo la grande innovazione da un punto di vista di suono e di tecnica di Billy Cobham, ma insomma basta sentire il gioco di piatti, il gioco di rullanti che viene fatto a Billy Cobham e si può capire quale fosse la sua importanza. Ma adesso passiamo a un altro gruppo importante nell'ambito del jazz rock degli anni 70, appunto il titolo della puntata di oggi è proprio questo, come eravamo il jazz rock degli anni il jazz rock negli anni 70. E anche qui un po' il trait d'union è fatto da un batterista. Parliamo in questo caso del gruppo dei Brand X. Nei Brand X suonava in molte occasioni, non sempre, ma in molte occasioni per diversi anni, Phil Collins. Phil Collins che voi tutti conoscerete soprattutto per essere il batterista e poi il cantante dei Genesis e poi anche per la sua carriera come solista coronata solo da grandissimi successi. Ecco, Phil Collins, diciamo tra il 75 e l'80, oltre a suonare con i Genesis, suonava con questo gruppo dei Brand X, in cui l'altro cofondatore, anzi il fondatore direi, è John Goodsall, che suonava chitarra. Anche in questo pezzo che vi farò ascoltare sentirete come vi sono numerose innovazioni, sperimentazioni direi dal punto di vista musicale, sperimentazioni sia sul piano sonoro che su quello melodico che su quello ritmico, che danno secondo me un risultato estremamente interessante e che ci può far capire tutto quello che poi è venuto dopo in termini di unioni fra diversi generi come in questo caso il jazz e il rock. Come dicevo, Phil Collins anche fisicamente rappresenta un ponte in questo caso fra questi due generi. Dopo la esperienza dei Brand X va detto che Phil Collins non ha più percorso questo tipo di sperimentazioni, ma è rimasto nel campo del rock, del pop, direi con grandi risultati. Il pezzo vi farò ascoltare questa sera si intitola Malaga Virgen ed è tratto da un disco del 1977 che si intitola Moroccan Row. Thank you. Brandix, Malaga Virgen, da Moroccan and Roll, disco del 1977. Brandix, lo ricordo, è un gruppo in cui suonava anche Phil Collins, in vari dischi ha suonato Phil Collins, in questo disco anche c'era lui, il principale, il fondatore si chiama John Goodsall, e avete sentito che tipo di sonorità abbastanza innovative, anche con questo basso molto particolare per allora, è un suono molto elettrico, anche tutte le tastiere che voi avete sentito degli effetti. Queste sono un po' le caratteristiche abbastanza simili di molti dei gruppi di jazz rock degli anni 70. È interessante così sapere come nascono certe volte i nomi dei gruppi, come in questo caso Brand X, che sarebbe come marca X. Quello che si racconta è che il gruppo stava provando un giorno, all'inizio, alla costituzione di questo gruppo, stava provando in uno studio e uno dei responsabili della casa discografica, Richard Williams, che era anche un critico di un famoso giornale musicale inglese, si chiama Melody Maker, così li va ad ascoltare naturalmente e prende nota nel proprio taccuino appunto della musica che suonano e indica, visto che non aveva nome, Brand X, cioè marca X. Da quel momento in realtà è rimasto questo nome molto particolare, e che in realtà, pur essendo una marca sconosciuta come marca X, denota molto bene un genere, un momento della storia musicale legata al jazz rock. Adesso passiamo a un altro musicista importante di questo periodo, importante in questo genere naturalmente. È un musicista cecoslovacco che si chiama Jan Hammer, e anche lui ha inciso molti dischi e soprattutto inciso dischi strumentali come questo che noi ascolteremo, con un ampio uso di strumenti elettronici, in particolare sintetizzatori, che in quel periodo probabilmente andavano per la maggiore, direi, in termini di sperimentazione. E questo disco che ascoltiamo è un disco particolare anche nella concezione, perché si intitola The First Seven Days e si riferisce ed è ispirato un po' a un album concettuale ispirato appunto alla Genesi. La Genesi intesa non come sette giorni, ma chiaramente come periodi molto più lunghi, che questo musicista cerca di trasporre in musica, con questa musica molto contaminata, molto particolare, che adesso ascolterete, e naturalmente anche in questo caso tutto strumentale. Jan Emmer, va detto, è da alcuni considerato come uno dei pionieri dell'acid jazz, e sentirete, d'altra parte anche la sua storia un po' ci dà un'idea del perché può essere considerato il pioniere dell'acid jazz. Non è un caso che tra i suoi pezzi famosi successivi vi sono i pezzi che lui ha scritto per varie serie televisive, fra cui una famosissima che è Miami Vice. Ecco, il tema di Miami Vice era scritto da Jan Emmer, e sicuramente gli ha dato molta più fama di quanto non gli abbia dato la sua altra attività nel jazz rock. Va detto anche, per ricollegarlo con musicisti precedenti, parlavamo di Billy Cobham, che Jan Emmer ha anche suonato con la Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin, che era stata fondata anche da Billy Cobham, sentiamo prima. Quindi c'è una grande attività, appunto, in questo periodo, molti incroci, molte collaborazioni e anche molte sperimentazioni. Adesso sentiremo questo pezzo tratto da The First Seven Days di Jan Emmer del 1975, e il pezzo si intitola Darkness Earth in Search of a Sun. Yanamer, Darkness Earth in Search of a Sun, da The First Seven Days del 1975, e avete sentito appunto come anche in questo pezzo si sente moltissimo l'unione fra jazz e jazz e rock, insomma, dalle chitarre all'uso della batteria, agli arrangiamenti, si sente moltissimo questa influenza, questa contaminazione, come dicevo prima, questo mix sicuramente molto positivo e anche molto interessante, che appunto, come dicevamo prima, farà poi scaturire in futuro numerosi altri esperimenti e altre sonorità molto, molto interessanti. Adesso passiamo a un altro gruppo importante, un altro gruppo che nasce come un gruppo rock puro, un rock psichedelico. Si chiamano The Soft Machine o Soft Machine, e nasce a metà degli anni 60 e fino all'inizio degli anni 70 è quello che potremmo oggi dire un rock progressivo, un rock appunto psichedelico, come dicevo prima, che però poi nel tempo evolve anche su altre sonorità più vicine al jazz, anche a quello che poi in futuro potrà diventare o viene definito jazz fusion. Vi ho già dedicato una puntata di jazz e dintorni alla fusion, e anche la puntata di oggi vi fa capire da dove viene certo tipo di musica, anche se che poi con il tempo naturalmente le evoluzioni portano a notevoli modifiche. Il pezzo che vi propongo è un pezzo tratto dal disco Six. Sì, un'altra particolarità di Soft Machine è che chiamavano tutti i loro dischi con dei numeri che erano o cardinali o ordinali, quindi alcuni si chiamano terzo, quarto, questo si chiama sei, e vanno in ordine. Questo Six è stato inciso nel 1973. È un disco sicuramente particolare, per esempio è un disco in cui viene utilizzato molto uno strumento a fiato che non è molto comune in generale nel jazz e tantomeno nel jazz rock, è l'oboe. Lo sentirete anche in questo pezzo. Questo disco Six ha avuto vari premi. Il Soft Machine, non ve l'avevo detto di prima, era un gruppo inglese, era nell'area di Canterbury, nasce, e non a caso nel 1973 questo disco vince il premio come miglior album jazz inglese della prestigiosa rivista musicale Melody Maker, che già prima vi avevo menzionato. Il pezzo si intitola 37 e mezzo e come vi dicevo è tratto da questo disco Six, Soft Machine. Thank you. Soft Machine, 37 e mezzo da questo disco Six del 1973. Anche qui nuova escursione su sonorità interessanti, diverse, però avrete un po', spero, colto questo fil rouge che lega tutti i pezzi e i gruppi che abbiamo sentito finora, ritmiche particolari, uso di strumenti elettronici, fraseggi abbastanza particolari. Ecco, questo è un po' il jazz rock degli anni 70, la colonna sonora jazz innovativa degli anni 70. Chiaramente questa onda innovativa, queste così sperimentazioni non lasciano così indifferente l'Italia. Anche in Italia naturalmente si sviluppano dei gruppi, si sviluppano delle sperimentazioni in questo, diciamo, settore, in questo genere musicale jazz rock. Sicuramente uno dei gruppi più importanti di jazz rock italiano è il Perigeo. Perigeo è un po' la creatura di un musicista molto bravo, un musicista che ha dato molto al jazz italiano, non solo in Italia ma anche in tutto il mondo, ed è molto famoso. Parliamo di Giovanni Tommaso. Giovanni Tommaso è un contrabbassista, ma anche un compositore e sicuramente un grande sperimentatore. Ed è lui che fonda il Perigeo con molti altri musicisti del periodo, pronti a seguire questa sperimentazione, con dei risultati sicuramente molto interessanti e a livello internazionale, senz'altro, anche se il Perigeo naturalmente aveva soprattutto così come area di influenza quella italiana. Ancora il jazz italiano era poco famoso all'estero. Comunque sentirete che i risultati erano molto interessanti, e questo è un disco del 1974 che si intitola Genealogia. In questo disco suonavano anche altri importanti musicisti del tempo, che hanno poi continuato con carriere eccezionali. Per esempio c'era Bruno Biriaco alla batteria, Franco D'Andrea al pianoforte e anche al piano elettrico, Claudio Fasoli ai sax e Giovanni Tommaso appunto al basso. Il pezzo che sentirete, come vedete, è Polaris ed è tratto da questo disco del 1974, Genealogia. Perigeo, Polaris, da Genealogia 1974. Avete sentito che questo jazz rock non ha certo nulla di invidiare, da invidiare a quello che abbiamo ascoltato così di proveniente dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti. Perigeo era una creazione di Giovanni Tommaso, come vi ho detto, grande musicista e grande contrabbassista. Adesso passiamo a qualcuno che sicuramente tutti conoscono e che ha inciso nei primi anni 70 diversi dischi che possono essere considerati come jazz rock. Si tratta di Santana. Anche qui i pezzi da scegliere ce ne sarebbero tantissimi, e questo chitarrista ha prodotto dei capolavori anche in quel periodo, a partire da Caravanserai, a partire da Welcome. Oggi il disco che vi farò ascoltare è Borboletta, un altro disco molto bello del 1974, tra parentesi anche una copertina bellissima, c'era tutte farfalle blu. E il pezzo che sentirete si intitola Promise of a Fisherman, e l'ho scelto perché in questo disco, in cui sono dei pezzi veramente molto interessanti, perché più di altri secondo me dà un po' l'idea di questo periodo jazz rock di Carlos Santana, che anche in questo caso naturalmente è circondato da musicisti di alta levatura e da percussioni. Sentirete la sua chitarra, insomma sentirete il solito suono di Santana che riesce a rinnovarsi, che è riuscita a rinnovarsi in tutti questi anni a partire dalla fine degli anni 60, e che in quel periodo sicuramente ha lo stesso dato un suo contributo a questo genere, appunto jazz rock. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Alma, il programma è Jazz e Dintorni, oggi dedicato agli anni 70 al jazz rock. Adesso Santana, Promise of a Fisherman, da Borboletta. E manteniamo in sottofondo questa bellissima chitarra di Carlos Santana col suo gruppo Santana nel 1974 dal disco Borboletta. Questo pezzo si intitola Promise of a Fisherman. Ed anche qui avete ascoltato un'altra faccia del jazz rock. Prima di lasciarci, sicuramente vi devo far ascoltare un altro gruppo molto noto e che sicuramente ha segnato profondamente il jazz rock e anche la fusion successiva, potremmo dire. Si tratta di Weather Report. I Weather Report furono fondati all'inizio degli anni 70, nel 1970, da due grandissimi musicisti. I fondatori furono Joseph, piuttosto il nome vero, ma Joe Zawinul e One Shorter. Zawinul è compositore, suona soprattutto tastiere e soprattutto sintetizzatori, anzi viene considerato da tutti come uno dei migliori musicisti per quanto riguarda il suono con i sintetizzatori. E One Shorter è un sassofonista, che anche lui ha percorso numerosissime strade, sempre con grande successo, e che continua a incidere anche oggi con dei gruppi interessantissimi guidati da lui. Ecco, l'unione di questi due grandi musicisti ha portato alla creazione dei Weather Report, che poi hanno attratto anche tantissimi altri grandi musicisti con loro. Tra i bassisti potremmo ricordare Miroslav Vitus e poi anche Jaco Pastorius e, come in questo caso, Alfonso Johnson, ma ce ne sono moltissimi che hanno suonato con loro. Il pezzo che vi farò ascoltare è un pezzo da un disco del 1974 tratto da questo disco si intitola Mysterious Traveler. Questo pezzo si chiama Nubian Dance. Ha una particolarità questo Nubian Dance, che è sostanzialmente una lunga improvvisazione, un pezzo composto da Zawinul, è una lunga improvvisazione, e nelle sue memorie Zawinul racconta che il tema principale su cui improvvisare è sostanzialmente stato composto in 10 minuti. E sentirete che cosa può succedere con un'idea che viene in 10 minuti quando è in mano a dei grandi musicisti. Purtroppo Zawinul è morto nel 2007 e quindi non potremo più, fino all'ultimo ha suonato, devo dire, è morto a 75 anni, perché era nato in Austria nel 1932, questo spiega un po' il suo nome. Anche in questo caso si potrebbero dire molte altre cose di lui, però forse meglio di ogni altra cosa può parlare la sua musica. E quindi adesso passiamo ad ascoltare questo Nubian Sundance da Mysterious Traveler 1974. Nubian Dance, The Weather Report, un pezzo di Joe Zawinul, un pezzo molto gioioso, come avete potuto sentire, e che ricorda un po' delle feste, un po' le feste da matrimonio. Questa era un po' l'idea dietro questa composizione, almeno così la racconta Zawinul, che racconta di averlo composto, appunto, come dicevo prima, in 10 minuti e anche in un momento molto piacevole, molto gradevole, che favoriva sicuramente questa vena compositiva. Siamo giunti all'ultimo pezzo, speriamo che questa carrellata, questo viaggio, come sempre nelle intenzioni mie, di Stefano, appunto, in questo jazz dintorni, oggi vi abbia portato piacevolmente a conoscere gli anni 70 in termini di jazz rock. Naturalmente questi erano solo alcuni dei musicisti significativi, ma speriamo di avervi dato alcuni elementi per capire come poi oggi si è arrivato alla situazione che noi abbiamo, sicuramente molto interessante, di jazz elettrico, di jazz contemporaneo. Non mi resta che salutarvi, vi lascio in ottime mani come sempre. Danny M e Mary D per Brussellando sono già qui pronti, tra poco li ascolterete in un'altra carrellata culturale per tutto ciò che accade qui a Bruxelles. A me non rimane che salutarvi e darvi appuntamento naturalmente per settimana prossima con un'altra puntata così un po' originale, che sarà dedicata a jazz e misticismo. Da Jazz e Dintorni, Stefano, un saluto. Ciao a tutti. Avete ascoltato Jazz e Dintorni, viaggi nella musica, percorsi e proposti da Stefano. Exactly what is it? Right now, I wanna make it clear. Impromptu's not new, we've been around for years. Highly respected among our peers. For making good music people love to hear. Some of y'all may be confused. Because of the style we choose. We mix hip hop, jazz, and R&B. We don't categorize, we just make what sound good, baby. Is it hip hop? It is what it is. Is it jazz? It is what it is. Is it R&B? It is what it is. Call it what you want, it is what it is. Is it pop? It is what it is. Is it neo soul? It is what it is. Is it funk? It is what it is. Call it what you want. We make music to feel good, and we don't care who hood. That is bumping, keep it jumping. Impromptu's back till you're kin. There's a sound you never heard. It's up to you. Speak